ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite, su aruba.it. Contro la noia, contro la paura, ascoltiamo Due di Denari con i due antivirus Meassa e Larciani. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Ma dici a me. E con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Ma con chi credi di parlare tu? Cara Deborah, hai riconosciuto la voce minacciosa? Altro che. Questa grande era... classico della cinematografia americana, mondiale oserei dire. Eh sì, era la voce minacciosa, ohimè, del doppiatore ovviamente, no? Ma che doppiava Robert De Niro, che è invece l'oggetto della nostra prima notizia della settimana. Sì. Una notizia che è un po' intinta con le cose di cui ci occupiamo spesso, diciamo la verità, perché ex coniugi, liti tra ex coniugi, affidamento, assegni, eccetera. Noi ne parliamo spesso con molta serietà, questa volta un pochino più di leggerezza, anche se la questione è assolutamente seria. Perché, Deborah, è la questione seria? Dillo tu. Vabbè, allora, un po' come a tanti di noi, come a tutti i comuni mortali, questo lockdown chiaramente ha significato gravi perdite dal punto di vista economico. E allora è toccata anche a Robert De Niro perdere quasi 5 milioni di dollari, al punto che lui dice di essere quasi sul lastrico a causa del coronavirus. Perché lo ha detto Robert De Niro? Perché si è dovuto giustificare in tribunale, anche se era collegato via Skype, si è dovuto giustificare con la ex moglie Grace Hightower, che chiedeva, anche lei un po' in crisi per il coronavirus, di aumentare la disponibilità finanziaria, che era già importante, quella che l'attore gli riconosceva a seguito della loro separazione. Loro sono stati sposati per 11 anni, si sono separati, hanno divorziato nel 2018, ma la signora Grace, la signora Hightower, si lamentava appunto con la corte perché l'attore le ha ridotto il tetto sulla carta di credito da 100.000 dollari a 50.000 dollari, e quindi lo ha portato in tribunale. Ma lui ha detto: signori miei, però io ho una catena di ristoranti dove non entra più nessuno perché, come sapete, per il restringimento per la limitazione appunto degli spostamenti, il lockdown negli Stati Uniti, chiaramente nessuno frequenta più i ristoranti, tantomeno quelli dei VIP, che magari immaginiamo siano anche particolarmente onerosi, e di conseguenza anche lui si trova in difficoltà economiche e non può riconoscere più l'emolumento economico che ha riconosciuto fino a poco fa sua moglie. Ecco, anche i ricchi piangono, Mauro. Sì, devo dire che però io ho letto pure che comunque la ex signora De Niro, la signora Hightower, avrà a disposizione 70.000 dollari per le vacanze, per queste vacanze del 2020. Io direi che può permettersi anche un discreto viaggetto, insomma, 70.000 dollari da spendere mi sembrano una cifra importante. Devo ringraziare il premuroso Carmelo Lauricella, che insieme al giudizioso Guido Scotti, oggi in regia, mi ha ricordato chi era la voce del doppiatore. Io avevo avuto una terribile amnesia. Ferruccio Amendola era il doppiatore mitico che faceva pronunciare appunto a Robert De Niro nell'edizione italiana queste parole: dici a me, stai dicendo a me, stai parlando con me. Era Ferruccio Amendola. Grazie naturalmente anche al sempre prezioso Marco Lombardo, che da remoto tutto vede e tutto governa. Di ma che senti, si parla già che oggi? Ci siamo, ricordiamo anche che il film era Taxi Driver, ma certo, gli appassionati lo avranno riconosciuto senz'altro. Allora, di che cosa parliamo? Anche in questo caso, anche oggi parliamo dalle liti tra Robert De Niro e la ex moglie, e parliamo anche noi di liti, ma di quelle che si possono consumare con la nostra banca. Allora, per risolverle possiamo rivolgerci all'arbitro bancario finanziario, e oggi parliamo dell'attività di questo organismo perché proprio la settimana scorsa è stato stato presentato a Milano un bilancio dell'attività della BIF, l'attività decennale, perché tu pensa che questo organismo di risoluzione alternativa delle controversie, caro Mauro, proprio quest'anno celebra i suoi primi 10 anni di attività. E quindi sarà l'occasione questa mattina sia per fare un punto della situazione su come è cresciuto questo organismo, come si fa naturalmente a fare ricorso attraverso l'attività appunto di questo istituto, e appunto avremo due ospiti quest'oggi sia per un bilancio complessivo sia proprio per farci dare i dettagli dell'istruttoria che si deve svolgere nel caso in cui abbiamo bisogno appunto di litigare con la banca e abbiamo bisogno di rivolgerci a questo organismo per l'appunto. Quindi 800 24 00 24, numero verde per gli ascoltatori che però credo come sempre ci possono anche scrivere. Ma certo, e allora 349-238-6666 se vogliono scriverci un sms o un messaggio via WhatsApp. Peraltro questo stesso numero, 349-238-6666, va bene anche per messaggi vocali. Attenzione, anche se parliamo di arbitri non parleremo di Giacomelli e delle vicende di sabato, insomma, che hanno interessato la quantità di rigori assegnata durante una certa partita. Invece parliamo di arbitro bancario finanziario .it, che guarda, è il sito appunto della ABF. Per l'arbitro Giacomelli proprio. Potete poi sentire tutti i convocati più tardi nel pomeriggio. Andiamo a Meteo Borsa. Andiamo a sentire la borsa. Ecco, bravo. Meteo Borsa. Meteo Borsa di oggi con un analista finanziario, grande amico di Due di Denari, Carlo Aloisio, che salutiamo. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno Deborah, buongiorno Mauro, però non parlo neanche io dopo quello che ho sentito, perché bravo. Mercoledì dopo il rigore dato al Milan con una spallata non ha parlato nessuno, invece questo... Allora, ecco, tutti e due, ecco. La trasmissione sportiva è nel pomeriggio, trasferitevi se volete, di là. Ecco. No, va bene, vediamo come vanno le azioni della squadra di Torino. Allora, ah no, scusami Deborah, no, forse non era la migliore di Piazza Affari oggi la tua squadra. Allora, adesso io ho sotto gli occhi per la verità solo il Fuzzimib, e quindi non essendo più nel paniere principale adesso non riesco al volo a controllare, ma poi con grande spirito sportivo andrò anche a controllare quello che succede in borsa ai titoli della Juventus. E per la verità oggi una giornataccia per i titoli di Atlantia, ex Autostrade, meno 13,70% in questo momento, sospesa più volte, le ragioni lo sappiamo, c'è questa lite furibonda con il governo che vuole assolutamente revocare la concessione. Noi non abbiamo assolutamente interesse, ha detto il premier Conte poco fa, di come dire, approvare qualsiasi iniziativa d'intesa con i Benetton, proprio per sintetizzare in soldoni tutte le polemiche di questi giorni. Nonostante la missiva inviata dal gruppo Benetton, dalla famiglia Benetton sabato scorso al governo con la proposta appunto per rinnovare la concessione, il governo non è assolutamente interessato a negoziare a quanto pare in alcun modo. Il titolo infatti tracolla in borsa, e peraltro Mauro, Milano stamattina era partita con un rialzo di oltre un punto, poi chiaramente sotto il peso di questa storia e anche di altre fa fatica in questo momento a trattenere il territorio positivo, è andato in negativo anche per un attimo, più 0,17%, vanno meglio le altre piazze europee, ma stamattina sono andate di nuovo molto bene tutte le piazze asiatiche. E quindi vado subito alla prima domanda con Aloisio, che, caro Mauro, è la solita domanda che ci stiamo facendo io e te da un sacco di settimane: ma che cosa ci hanno da festeggiare ste borse, con i numeri della pandemia che sono clamorosi ogni giorno e i numeri dell'economia che lo sono altrettanto, purtroppo in termini negativi entrambi? Aloisio. Condivido perfettamente, comunque la Juve punto 937 praticamente invariata da venerdì, la Lazio meno 2,80, forse qualche, ecco, vabbè, a parte queste battute di classifica. Ma Deborah, mi ricorda un pochino, non vorrei allarmare, però quel periodo tra il 20 febbraio e il 25 febbraio, quando in Cina comunque era già scoppiato insomma un bel disastro, le borse cinesi è vero che erano chiuse per il capodanno cinese, quindi l'impatto dal punto di vista numerico è stato più limitato rispetto a quello che poi è successo nelle settimane dopo da noi, però si diceva ma sì, ci sarà una contrazione del PIL in Cina, ma le autorità con i lavori pubblici e tutte le cose, un ospedale fatto in una settimana sosterranno il PIL, quindi forse perderà 1-2 punti rispetto al 6% degli ultimi dati. Mi fa un po' ricordare quel momento, cioè nel senso c'è una grande aspettativa da parte dei mercati dopo chiaramente avrà avuto un tracollo, perché se pensiamo a Piazza Affari, in quel momento eravamo sui 25.000 punti e non riusciamo a supportare al di sopra dei 20.000. Adesso ci arriviamo, poi vedono sempre un po' di prese di profitto a quel livello. E lo stesso vale un po' per le borse americane, che forse sono un pochino più pompate, soprattutto il Nasdaq per la tecnologia che ha molto supportato questa fase. Però se guardiamo concretamente, condivido in pieno, perché l'aspetto macroeconomico lo vedremo in maniera molto pesante nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sui numeri reali, con produzioni aziendali diminuite in doppia cifra, dati macroeconomici dei paesi con PIL in calo, in molti casi anche in questo caso a doppia cifra, quindi sicuramente si contrasta. I mercati hanno un'aspettativa probabilmente che da un giorno all'altro qualche diciamo mega, come dite voi, esperto in materia medico-scientifica, annunci in televisione: ho trovato il siero, la pillola che combatterà il Covid in maniera molto semplice, quindi si uscirà un po' da tutto questo problema. Però al momento effettivamente la lettura è un po' complessa da indicare. A meno che tutti guardino con estremo ottimismo quello che sta per succedere questa settimana, insomma, dati del prodotto interno lordo cinese, mi pare anche ci sia una riunione della BCE, Deborah, in questa settimana. Esattamente, sì, con no? conferenza stampa, sì, con conferenza poi, stampa di Christine Lagarde. Sì. E poi fine settimana in gloria, verrebbe da dire, cioè recovery fund, incontri per fare un ulteriore passo, probabilmente, così si pensa, quello decisivo, quello risolutivo per questo maxi fondo di sostegno ai paesi europei. E quindi ci aggiungo, Mauro, un altro paio di appuntamenti, guarda, tanto per completare il quadro, perché è veramente una settimana ricca. Inizia la stagione delle trimestrali negli Stati Uniti, iniziano questo round le banche e poi c'è anche una teleconferenza dei tecnici e dei ministri dell'OPEC, quindi davvero avremo una marea di indicatori da monitorare con attenzione. Sì, gli indicatori sono tantissimi. Sì. Sì, sì. Dalla BCE, diciamo, salvo una conferma di quelle che sono state le linee guida delle ultime fasi, diciamo che il lavoro fatto dalla Lagarde dopo il crack iniziale di febbraio, in quella per sua prima conferenza post diciamo crisi che stava iniziando, che diede una bella botta di meno 10% i listini, diciamo si è ripresa, quindi non credo che ci sarà qualcosa di nuovo in quell'ambito. Da parte delle riunioni dell'Eurogruppo, quello sì, c'è il discorso dei recovery fund. Abbiamo visto come in questi giorni anche il nostro Presidente del Consiglio sia stato molto attivo in quell'attività di lobby con gli altri interlocutori europei per cercare di arrivare a una soluzione. Devo dire che da quello che leggo, la maggior parte delle case d'affari internazionali o analisti non si aspettano in questa riunione un risultato definitivo. Poi se la realtà ci smentirà, sicuramente i mercati ne trarranno delle conseguenze da questo punto di vista positive, però diciamo l'attesa è sicuramente un qualche passo importante in avanti, ma non una soluzione ancora definitiva su questo aspetto. Sulle trimestrali, ecco, quello sarà un dato molto importante, perché avremo quelle che sono un po' le idee e le aspettative degli analisti sulle singole società e quanto eventualmente vi saranno differenziazioni. C'è da aspettarsi sicuramente dei risultati difficili da comprendere. Abbiamo visto anche in queste ultime settimane tanti numeri con delle attese diverse anche sull'occupazione in America o d'altro, che hanno fatto da market mover sui mercati. Quindi credo che la volatilità resterà abbastanza elevata nelle prossime settimane, proprio legato a questo aspetto, perché basterà un dato forme da quello che è un'aspettativa che farà da market mover per tutta la giornata. Aloisio, le faccio una domanda, ma le chiedo una risposta pressoché telegrafica. BTP Futura, settimana scorsa il collocamento, bene ma non benissimo, secondo lei ci si aspettava di più? Allora, il timing in cui è uscito è stato ottimo per il tesoro dal punto di vista dell'esborso di cedole, quindi tassi bassissimi, se pensiamo che partiamo dall'1,15 all'1,45 nello step up. Molti hanno detto, ma il BTP Italia di un poco meno di un mese fa, con 5 anni anziché 10 rispetto al futuro, aveva l'1,40 di cedola più il ratio di premio, inflazione, premio più l'inflazione, che lo avvicina quasi al 2% su una curva di 5 anni. Bisogna tener conto che in quel momento non avevamo il rendimento del BTP decennale all'1,23 come abbiamo oggi, proprio per tutte quelle cose che abbiamo detto, intervento della BCE, ricoveri eccetera eccetera, ma avevamo dei tassi sul decennale intorno all'1,70%, quindi da un certo punto di vista meno introiti per il tesoro, però minor spesa. Sicuramente si rifarà il tesoro con le aste di questa settimana, perché avremo un nuovo BTP a 7 anni, avremo anche nuove riaperture sul decennale, e in questo caso ci sarà una cosa importante, la posizione, anche la possibilità di acquistare titoli da parte degli istituzionali, cosa che era preclusa in questo BTP Futura, mentre nel BTP Italia l'ultimo giorno, anche da ricordare, era aperto agli investitori istituzionali, che quindi hanno alzato molti volumi, quindi due tipologie diverse proprio di emissione. Grazie. Comunque, tra l'altro, sì, no, una cosa interessante, Mauro, è che in ogni caso, nonostante ci siano stati commenti contrastanti proprio sul risultato e l'esito dell'operazione del BTP Futura che si è conclusa venerdì scorso, il tesoro si è detto soddisfatto, gli operatori dicono bene ma non benissimo. Per la verità pare che il tesoro comunque nella seconda parte dell'anno, in questa seconda parte dell'anno, rifaccia un'altra operazione, quindi evidentemente sono contenti come sono andate le cose, quindi se potessero bissare probabilmente per loro sarebbe già una grande cosa. Vedremo. Comunque sono stati 6,2 miliardi tutti di retail, quindi direi una, il numero, come diceva, bene ma non benissimo, ma non è da sottovalutare. Tanti nuovi, certo, investitori, si calcola che almeno il 30% siano nuovi investitori che si sono approcciati sul BTP. Comunque con un investimento medio di 30.000 euro circa, per cui effettivamente questo ci dà anche un po' il polso della situazione sul risparmio degli italiani, e nonostante la crisi enorme ancora qualche soldino da parte qualcuno ce l'ha, per fortuna. Mauro, andiamo al GRR? Volentieri, giornale radio del risparmio, ringraziando Carlo Aloisio, alla prossima. Arrivederci, buona giornata. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Io consiglierei al professor Mario Draghi di mettersi questa canzone come suoneria nel telefono, perché oramai lo identifichiamo. Non so, io non ho mai potuto ascoltare la suoneria del professor Draghi, però se vuole io gli consiglierei questa. Noi gli possiamo fornire il file, naturalmente Carmelo Lauricella qui è a disposizione, il professor Draghi, ci mancherebbe altro, anche perché, caro Carmelo, devi sapere che Mario Draghi ha ottenuto anche una nomina come componente dell'Accademia delle Scienze Sociali da Papa Francesco. Quindi stiamo parlando di organismi ai massimi livelli. Cos'è l'Accademia delle Scienze Sociali? È un'istituzione che è stata fondata nel 1994 e ha lo scopo di fornire alla Chiesa gli elementi da impiegare per lo sviluppo della dottrina sociale e permettere di studiarne gli effetti dell'applicazione nella società contemporanea. Insomma, un organismo consultivo di altissimo livello, presidente l'economista Stefano Zamagni, cancelliere il vescovo Sanchez Sorondo, e questa è la prima carica, in realtà non è una carica operativa, ma è comunque la prima carica che l'ex presidente della Banca Centrale Europea assume dopo aver lasciato il suo incarico. Quindi per questo gli consigliamo anche l'utilizzo di Whatever It Takes. Draghi peraltro ha già incontrato più volte Papa Francesco e quindi sarà stato anche facilitato, insomma, nel assumere questo nuovo incarico. Prego, Deborah. Si sono piaciuti. Ho un quesito per te, e siccome sì, tu frequenti gli ambienti dell'Esperto Risponde del Sole 24 Ore, ti chiederei gentilmente, per conto di alcuni nostri ascoltatori, una risposta. Per la verità questa domanda l'ha rivolta un lettore del Sole 24 Ore e avete ben pensato appunto di metterla nell'inserto di oggi forse non è sull'Esperto Risponde così, questo Deborah. Quesito. Oh sì, no, era lì, vero? No, ho detto bene, vedi, adesso un attimo sono andata in confusione. Allora, il mio datore di lavoro ritiene che con il sistema di smart working, questa è una questione che torna spesso, io non abbia più diritto al ticket restaurant, nonostante i miei orari di lavoro 7:30-15:30, 15:30-23:30, 23:30-7:30, quindi turni, non siano cambiati, costringendomi dunque a lavorare anche durante i pasti. Come funziona? Peraltro stavo pensando uno smart working che lavora uno smart worker che lavora anche di notte, chissà che tipo di lavoro è, perché il lavoro impiegatizio immagino che si possa svolgere anche in maniera notturna, ma sarei anche curiosa di sapere effettivamente che tipo di lavoro fa questo ascoltatore. In ogni caso, che cosa avete risposto? In ogni caso è stato risposto dall'esperta Stefania Radoccia che la prima cosa da guardare è il contratto collettivo nazionale di lavoro. In questo caso si tratta di un call center, abbiamo appurato. Allora lì bisogna capire se nel contratto collettivo nazionale di lavoro c'è l'erogazione di una indennità che è prevista per la totalità dei lavoratori, quindi anche per coloro che eventualmente non utilizzano il servizio mensa laddove ci fosse, allora questa indennità può essere prevista. Ma se invece il contratto nazionale di lavoro non lo prevede, allora non si ha diritto ai buoni pasto e quindi il lavoratore, ancorché turnista, se escluso in radice, verrebbe da dire, cioè dal contratto nazionale, non avrà diritto alla indennità del buono pasto. Spero che con questo di avere provocato, devi sapere che questa mattina è la cosa più cliccata del nostro sito in assoluto. Credo che davvero? Se la stia battendo anche con la vicenda Atlantia, autostrade, governo, eccetera, perché ovviamente il periodo di smart working per tutti ha suscitato molta curiosità. Prego Deborah. Sì. Allora, sarebbe molto tardi, dovremmo andare alla borsa, però la prossima notizia io la darei perché ci pare anche un assist interessante per l'approfondimento che faremo nella seconda parte della trasmissione, cioè parleremo dell'attività dell'arbitro bancario. Allora, devi sapere Mauro, ma so già che lo sai perché anche questa è notizia che stamattina viene ampiamente raccontata dalle Sole 24 Ore, stanno crescendo in Italia le frodi creditizie realizzate tramite il furto di identità. Pensa che nel 2019 ci sono stati oltre 32.300 casi per un danno stimato che supera i 150 milioni di euro. I dati sono stati diffusi dall'osservatorio CRIF Mister Credit. Solo il lockdown, con la drastica riduzione degli spostamenti e la chiusura della quasi totalità degli esercizi commerciali, ha posto per fortuna un freno a questo fenomeno e ha fatto registrare un calo di circa il 13% fra marzo e aprile. Ma in ogni caso la guardia va mantenuta ancora molto alta. In cosa consiste questa truffa? Consiste nel fatto che dati personali e finanziari trafugati vengono utilizzati per ottenere prestiti o acquistare beni a scapito degli ignari titolari che nella maggior parte dei casi non sanno che qualcuno è in possesso appunto dei loro dati e li sta usando naturalmente. Spesso la vulnerabilità, dicono gli esperti di CRIF, è accresciuta da comportamenti a rischio delle vittime, ad esempio con la disinvolta pubblicazione sul web e sui social di dati anagrafici e identificativi e informazioni che possono essere utilizzate per ricostruire false identità. Per cui fate molta attenzione, naturalmente, perché poi, come vedete, cadere in queste truffe è facilissimo. Poi è inutile andare a bussare alla porta magari della società che ha rilasciato la carta di credito o alla banca, perché se siamo stati noi un po' troppo leggeri nel comportamento non possiamo essere tutelati fino in fondo. Ma chissà poi l'arbitro bancario cosa dice di tutto questo? Beh, glielo chiediamo subito. Intanto questa notizia finisce dritta dritta nel serpente corallo che anche quest'estate ad agosto, sabato e domenica tornerà senz'altro. E invece andiamo a interrogare l'arbitro bancario finanziario, ma tutto questo dopo l'aggiornamento delle borse. Pecunia non... Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Due di denari. Cara Debora, qui il fratello nerazzurro Danilo Di Trani, che ha sostituito Guido Scotti in assistenza, sì, in badanza di prossimità, sa che questa canzone mi piace tantissimo e quindi me l'ha utilizzata subito per lanciare il tema della giornata, che è quello, come avevi detto, dell'arbitro bancario finanziario. E sì, abbiamo i dati del 2019, annunciavi tu, e abbiamo anche due ospiti di valore naturalmente mondiale, come è costume qui a Due di Denari. Io do il benvenuto a Margherita Cartechini del Dipartimento Tutela Clienti ed Educazione Finanziaria della Banca d'Italia. Buongiorno, benvenuta a Due di Denari. E buongiorno, buongiorno. E in collegamento c'è anche Pietro Sirena, presidente del Collegio dell'Arbitro Bancario Finanziario di Roma e direttore anche della Scuola di Giurisprudenza dell'Università Bocconi. Buongiorno professor Sirena. Buongiorno. Allora, dottoressa Cartecchini, abbiamo visto i dati della ultima relazione annuale sull'attività dell'arbitro bancario finanziario con una diminuzione nel 2019 dei ricorsi pervenuti, diminuzione sensibile del 18% rispetto al 2018, ma come mai questa riduzione? Le banche sono diventate improvvisamente correttissime e i risparmiatori attentissimi, i correntisti attentissimi? C'è stato un miglioramento così vistoso? Allora, innanzitutto grazie, la domanda mi offre diversi punti di riflessione. I ricorsi, come diceva lei, sono stati 22.000, con un calo rispetto all'anno precedente del 18%, ma il numero rimane comunque elevato, a dimostrazione anche della fiducia e dell'apprezzamento della clientela nei confronti di questo strumento, e sebbene il numero sia comunque piccolo se lo rapportiamo al numero delle relazioni dei clienti nei confronti di banche e intermediari finanziari, che sono decine di milioni, ed è piccolo anche se lo rapportiamo al numero dei reclami che i clienti fanno alle banche, che nel 2019 sono stati più di 360.000. E mi chiedeva come lo leggiamo questo calo. Sicuramente positivamente, in quanto, come diceva lei, nella sostanza le banche e gli intermediari finanziari si sono conformati alle decisioni consolidate dei collegi in un momento precedente la presentazione del ricorso all'ABS, e mi riferisco in particolare alla fase del reclamo, che costituisce una precondizione necessaria per la presentazione del ricorso. Ecco, esatto, spieghiamolo magari, dottoressa Cartecchini, nel senso che se si litiga con la banca per un qualunque servizio di cui non si sia soddisfatti e c'è da aprire appunto un contenzioso, un reclamo, il primo step, il primo passo è rivolgersi naturalmente all'ufficio banca. Reclami della banca stessa, al servizio clienti, customer service, appunto chiamiamolo come vogliamo. Dopodiché loro hanno, la banca ha obbligatoriamente un determinato lasso di tempo entro il quale deve dare una risposta. Se la risposta data al cliente non è soddisfacente, allora quello è il momento in cui si può andare a reclamare all'arbitro finanziario, corretto? È correttissimo, il reclamo è fondamentale. Come diceva la dottoressa, se la banca non risponde o non risponde nei termini richiesti dal cliente della banca e ha di tempo 30 giorni di tempo per farlo, il cliente può ricorrere all'arbitro bancario finanziario. Se non fa questo passaggio, ovviamente il ricorso è inammissibile. Quindi è fondamentale attivare prima l'interlocuzione con la banca. Io vorrei chiamare in causa il professor Pietro Sirena, perché allora andiamo un attimo nel meccanismo, nel funzionamento dell'arbitro bancario finanziario. L'arbitro bancario finanziario è innanzitutto un sito, arbitrobancariofinanziario.it, così come ve lo dico, quindi senza punti di sorta né segni di sorta. È uno strumento gratuito, professor Sirena, dico bene, cioè non ci sono costi da pagare per adire l'arbitro? Per la verità un piccolo contributo di 20 euro per le spese di procedura, che però viene poi restituito al ricorrente nel caso in cui il suo ricorso sia accolto. Ecco, le pronunce non sarebbero vincolanti, però prima la dottoressa Cartecchini ha detto una cosa secondo me illuminante, cioè le banche poi si conformano a queste pronunce, quindi si crea una sorta di giurisprudenza che dà un solco per risolvere molte altre controversie anche senza adire l'arbitro, è corretto? Sì, direi di sì. Diciamo che di fatto noi vediamo che meno dell'1% degli intermediari poi ha deciso di non dare esecuzione alle nostre decisioni e di rivolgersi alla magistratura, ma soprattutto vediamo sempre più spesso che la magistratura tiene conto degli orientamenti interpretativi dell'arbitro bancario finanziario, che spesso si colloca in zone un po' di frontiera del contenzioso tra banche e clienti, e quindi spesso gli orientamenti interpretativi dell'arbitro bancario finanziario in effetti sono recepiti dai tribunali e dalla giurisprudenza. Debora. Allora, Mauro, no, sì, stavo ragionando su quale potesse essere l'aspetto da far capire ai nostri ascoltatori, perché abbiamo parlato appunto dell'attività dell'arbitro bancario, ma non abbiamo dato magari un'elencazione di tutte le situazioni che si possono portare di fronte a questo organismo, perché generalmente, e ultimamente è successo un po' più i clienti appunto delle banche manifestano il loro disappunto per la gestione degli investimenti. Questi sono casi che vanno invece portati davanti all'arbitro per le controversie finanziarie della Consob. E invece, dottoressa Cartechini, all'arbitro bancario, quali sono le tipologie più diffuse di lite tra cliente e banca, appunto? Quindi quali sono i casi che possono essere portati di fronte in questo contesto? Sì, allora se andiamo ad esaminare le materie che sono state maggiormente portate all'attenzione dell'arbitro negli ultimi anni, vediamo che per esempio la materia più ricorrente è stata quella della estinzione anticipata di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio. Quindi in quel caso i ricorrenti che cosa hanno chiesto all'arbitro? Hanno chiesto la restituzione di alcuni costi che erano stati sostenuti dal cliente in sede di accensione del finanziamento, e hanno chiesto questa restituzione in relazione alla estinzione anticipata del finanziamento. Questa fetta, se vogliamo definirla così, di contenzioso ha riguardato, è stata comunque rilevante anche nel 2019, ma è scesa di quasi il 40% rispetto agli anni precedenti. Se eliminiamo il contenzioso relativo alla cessione del quinto, l'altra parte di contenzioso rilevante è relativo agli utilizzi fraudolenti su strumenti di pagamento. Mi riferisco per esempio a problematiche, frodi che magari possono essere capitate con riguardo all'utilizzo del bancomat, di carte di debito, di carte di credito, oppure a problemi di phishing in relazione a magari a operazioni online, oppure a erronee indicazioni dell'IBAN nel caso di bonifici disposti sempre attraverso il canale internet. Ci dobbiamo fermare un attimo perché diamo l'aggiornamento delle informazioni sul traffico, ma torniamo tra pochissimo. Ricordo i numeri: 800240024, il numero verde, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Traffico. Due di denari. Cara Deborah, qualche ascoltatore chiede: sì, ma dal momento in cui, diciamo, non sono riuscito a comporre la controversia con la mia banca, quando io vado sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it e faccio tutta la procedura per adire l'arbitro bancario finanziario e farmi risolvere la controversia, quanto tempo ci vuole? Io lo chiederei al professor Sirena, al professor Pietro Sirena. Professore, buongiorno. Dopo che il ricorrente ha completato questa procedura, occorre naturalmente lasciare tempo all'intermediario che è chiamato in causa affinché presenti le sue controdeduzioni e prenda posizione sulla contestazione che è stata sollevata dal ricorrente. Quindi diciamo che occorre che si esaurisca la fase di trattazione istruttoria della controversia. Da quel momento in poi, ossia da quando noi abbiamo tutte le carte, che ormai peraltro non sono più da intendersi in senso materiale, perché ormai tutta la procedura è stata smaterializzata e si svolge appunto mediante il portale dell'ABF, da quel momento in poi, per arrivare alla nostra decisione finale, la durata media della procedura nell'anno che si è appena concluso è stata di 270 giorni, quindi di 210 giorni, non di 270 giorni. 270 è la durata prevista dalle direttive europee, dalle indicazioni ministeriali. L'arbitro bancario finanziario riesce a fare tutto sommato meglio, appunto, concludendo. Ma meglio del benchmark, professor Sirena. Meglio del benchmark, sì. Meglio del benchmark, che però direi è già un successo. Sono d'accordo. Sette poi. Sette mesi, quindi. Sì, esatto. Sono d'accordo nel dire che, diciamo, questa durata, che pure si è ridotta in modo sensibile rispetto agli anni precedenti, soprattutto grazie alla, come dicevo prima, completa informatizzazione della procedura, può essere ulteriormente migliorata. Ci stiamo lavorando e la Banca d'Italia ci sta lavorando per fare ancora più in fretta, per essere ancora più rapidi nella risoluzione delle controversie, ma si tratta comunque di una durata veramente molto rapida se confrontata appunto, non parliamo dei tempi della giustizia civile nelle aule dei tribunali che come sappiamo sono no, questo per carità di patria, no. molto lunghi, ma comunque anche come dicevamo prima rispetto all'indicazione europea che è di 270 giorni, quindi insomma tutto sommato facciamo prima di circa 2 mesi rispetto al benchmark. Ma, professor Sirena, mi incuriosisce sempre questo fatto di cui dicevamo già prima della fare giurisprudenza delle vostre decisioni, perché nel sito c'è anche la possibilità di cercare per oggetto del ricorso, quindi io potrei anche senza dover ricorrere proprio all'arbitro, adesso non è che voglio tagliarvi fuori, ma insomma se ho un contenzioso andare a verificare se c'è una decisione su un caso analogo e opporla già da subito alla mia banca, è una procedura che lei consiglierebbe? Ma naturalmente sì, diciamo che noi cerchiamo nelle nostre decisioni non solo di risolvere il caso concreto, ma anche di dare delle indicazioni di compliance agli intermediari affinché si conformino alle pratiche migliori sul mercato e soprattutto per il futuro modifichino anche talvolta i loro assetti organizzativi per essere più efficienti e per rispondere meglio alle esigenze della loro clientela. Quindi certamente le decisioni dell'ABF possono costituire in questo senso una chiara indicazione di ciò che si richiede agli intermediari per essere compliant anche dal punto della vigilanza della Banca d'Italia, perché poi le decisioni dell'ABF si inseriscono appunto nel sistema di vigilanza della Banca d'Italia sulla trasparenza contrattuale e la correttezza degli intermediari nei confronti dei loro clienti. Volevo tornare alla dottoressa Cartechini, Mauro, perché l'abbiamo spiegato appunto all'inizio, la dottoressa Cartechini opera nell'ambito del Dipartimento Tutela dei Clienti ed Educazione Finanziaria della Banca d'Italia, che si è costituito di recente. La responsabilità è della dottoressa Magda Bianco, che viene spesso ospite di Due di Denari appunto. E perché ho fatto tutto questo preambolo? Perché, dottoressa Cartechini, celebrando i vostri 10 anni di attività, voi avete fatto anche una ricerca fra i cosiddetti ricorrenti contro le banche, attraverso l'attività dell'arbitro bancario appunto, e avete cercato di capire come vi valutano, che pagella vi hanno dato i ricorrenti per l'appunto, perché vanno definiti così. Allora, anche quest'anno abbiamo realizzato una survey che ha coinvolto poco più di 1500 ricorrenti e devo dire che i risultati sono molto soddisfacenti, nel senso che lo strumento viene valutato positivamente, soprattutto viene considerato molto facile da attivare. Prima si parlava del portale che consente di guidare passo passo il ricorrente nella presentazione del ricorso e un altro elemento interessante dato dalla durata. Il professor Sirena prima ha citato il forte miglioramento nei tempi di risposta che l'arbitro ha dato nel 2019, miglioramento che osserviamo ancora di più anche nei primi mesi dell'anno, la durata è scesa a 151 giorni e in generale dalla survey è emerso che nel 52% dei casi la durata viene considerata adeguata ed era il 32% nel 2018. L'altro elemento positivo è quello relativo al linguaggio semplice, nel 70% dei casi circa le decisioni vengono valutate semplici come linguaggio utilizzato, anche se sappiamo che anche su questo fronte dobbiamo migliorare anche insieme con la collaborazione dei presidenti e degli altri componenti dei collegi per cercare di conciliare l'esigenza di adottare di rispettare diciamo una coerenza interna tecnico-giuridica alla decisione, ma al tempo stesso di favorirne una adeguata comprensibilità anche per chi non ha le competenze tecnico-giuridiche adeguate. Altro elemento interessante è che la clientela, i ricorrenti lo hanno attivato per ottenere un giudizio imparziale. sindacale e quindi viene considerata l'autorevolezza dei collegi, dei componenti. E l'altra considerazione, forse l'ultima che farei, è che nel 70% dei casi circa il ricorrente consiglierebbe ad altre persone di rivolgersi all'arbitro per ottenere la tutela dei propri diritti, quindi sicuramente anche quest'anno le risposte sono state soddisfacenti. Ovviamente sono emersi anche degli spunti ulteriori di miglioramento di cui terremo conto per migliorare il sistema. Le chiedo una risposta telegrafica perché siamo davvero in chiusura. Quindi il lockdown non ha influito però sulla vostra attività, anzi lei dice addirittura si è ridotto il tempo di soluzione delle controversie. Allora, nonostante il lockdown, l'attività sia dei collegi sia delle segreterie tecniche istituite presso le sedi della Banca d'Italia che supportano l'attività dell'arbitro è proseguita. L'arbitro, tutto sommato, è un processo civile telematico, una sperimentazione del processo civile telematico. Come diceva il presidente Sirena, si svolge tutto online, quindi è tutto informatizzato, quindi i colleghi e i componenti dei collegi hanno potuto lavorare e proseguire senza nessuna, certo, senza nessuna interruzione. Grazie a Margherita Cartechini, Dipartimento Tutela Clienti ed Educazione Finanziaria della Banca d'Italia, grazie a Pietro Sirena, Presidente del Collegio dell'Arbitro Bancario Finanziario di Roma, grazie a Deborah Rosciani. Bene, a domani caro Mauro, buona giornata a tutti. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it